611. Quattro quarti all'inglese. Uova numero 5 e del loro peso, compreso il guscio, altrettanto zucchero ed altrettanta farina. Uva passolina grammi 200, burro grammi 200, candito a pezzettini grammi 30, bicarbonato di soda un cucchiaino. Lavorate prima le uova con lo zucchero, aggiungete la farina e continuate a lavorare con un mestolo per mezz'ora all'incirca. Lasciate il composto in riposo per un'ora o due, indi unite al medesimo il burro sciolto a bagnomaria, il bicarbonato, l'uva e il candito. Versatelo in una teglia o in una forma liscia unta col burro e spolverizzata di zucchero a velo misto a farina e cuocetelo al forno. L'uva passolina lavatela prima, onde nettarla dalla terra che ordinariamente contiene, ed asciugatela. Qui viene a proposito uno sfogo contro la proverbiale indolenza degli italiani, i quali sono soliti di ricorrere ai paesi esteri anche per quelle cose che avrebbero a portata di mano nel proprio. Nelle campagne della Bassa Romagna si raccoglie un'uva nera a piccolissimi chicchi e senza seme, colà chiamata uva romanina, che io, per uso di casa mia, ho messo talvolta a profitto perché non si distingue dalla passolina, se non per essere di qualità migliore e priva d'ogni sozzura. Per seccarla, distendete i grappoli in un graticcio, tenetela in caldana per 7 od 8 giorni, nettandola dai raspi quando sarà secca.